passione africana. In 2 anni il cambiamento è spettacolare, il mercato di Mbare è rinato, 2 anni fa nulla o quasi sulle bancarelle, così come nulla o quasi nelle vetrine. Un paio di calze lo si pagava anche 50 miliardi di dollari dello Zimbabwe, si faceva la fame. Qui davanti a noi invece bancarelle stracolme di prodotti tessili, $1 per 3 paia di calze, $3 per un paio di pantaloni, 50 cents per una confezione di 2 saponette, tutto quasi però made in China, con i prezzi che consentono ai poveri, la stragrande maggioranza degli abitanti, di sovvenire ad alcuni dei più essenziali bisogni. Sui diversi banchi, radici, polverine, bottigliette con liquidi indecifrabili, prodotti per la medicina tradizionale, la quale ricorre almeno l'80% della popolazione. Il mercato è affollatissimo, a volte avanzare è problematico. Il commercio ha ripreso a funzionare da quando Robert Mugabe, padre e padrone, ha formato un governo di coalizione con l'opposizione, alla quale il presidente aveva negato la vittoria elettorale. La situazione rimane delicata, l'autocrate è sempre lì, ma finalmente si ricomincia a sperare dopo il buio totale degli scorsi anni. The development that you see now came out of the government of national unity. Il governo di unità nazionale ha reso possibile la ripresa dell'economia e il ritorno a una certa normalità. È bastata una firma per far ripartire l'economia. Representative type of government and the economy started to recover almost immediately. Nigel ci riceve a casa sua per spiegarci il cambiamento in atto. Lo avevamo incontrato 2 anni fa, allora era una delle menti più attive dell'opposizione a Mugabe. Oggi è manager, pensa che il peggio sia passato e che questo paese abbia grandi potenzialità. Gli ricordiamo quello che avevamo visto 2 anni fa, la gente moriva di fame. Ora si sta meglio, ma la povertà è ancora grande e vi è ancora fame, soprattutto nelle zone non urbane. Nigel ci spiega che molte campagne sono ancora isolate, molto dipendenti dalle condizioni meteorologiche. Sì, la situazione è migliorata, abbiamo frenato l'emorragia, per esempio di docenti che erano fuggiti in Sudafrica, Botswana o nei paesi occidentali. L'esodo è finito, gran parte della gente non è tornata, vero? Ma stiamo migliorando, anche se la scuola o il sistema sanitario non sono ancora al livello che vorremmo e neanche al livello che avevano prima della grande crisi. Il paese è sprofondato nella crisi economica a partire dal 2000, quando hanno cominciato a farsi sentire gli effetti dell'espropriazione disordinata delle terre dei bianchi che Mugabe aveva consegnato ai suoi fedelissimi. Ma anche i costi della guerra in Congo, un'avventura che ha portato il regime a stampare moneta senza sosta per coprire le spese dell'intervento bellico. Il risultato è stato catastrofico anche in quei settori citati da Nigel, dove il paese poteva vantare bilanci ben più positivi di altri stati africani. Tom Colwell è attivo nel settore della sanità e coordina diversi interventi sostenuti anche dall'Unione Europea. Dal 2008 ci sono stati progressi. Prima era tutto bloccato, il personale sanitario non veniva in pratica pagato. Con la misera paga non si poteva neanche pagare il trasporto fino al posto di lavoro. Con l'introduzione del dollaro americano la situazione è migliorata. I salari versati dal governo al personale medico si aggirano sui $150. La Commissione europea e alcuni governi aggiungono a questa somma qualcosina. Il personale è ritornato al lavoro anche se le condizioni lavorative fanno sì che non sia molto contento o motivato. Happy or highly motivated. Nell'ultimo decennio comunque la situazione si è fatta molto problematica sul fronte sanitario. Lo si vede anche solo a livello empirico guardando la gente e lo si sente non appena si affronta l'argomento con qualcuno. AIDS, TB and malaria in that order. Le principali malattie sono nell'ordine, l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. La mortalità dovuta ai parti è salita e se si fa il paragone con 6-7 anni fa, la speranza di vita è diminuita. Qualcosa comunque sta cambiando in positivo. La lotta contro l'AIDS sta creando una migliore consapevolezza sui rischi da evitare. Il tasso di AIDS è sceso. Distribuiamo molti preservativi, maschili e femminili. Lo Zimbabwe è ora il paese al mondo con il più alto tasso di vendita pro capite di preservativi. La gente ha finalmente preso coscienza di un problema che tendeva a sottovalutare o ignorare. trying to do something about the problem. They're not ignoring or denying the problem. Messo in ginocchio da scelte politiche e economiche considerate scellerate dalla comunità internazionale, lo Zimbabwe sta rialzando la testa grazie anche alle infrastrutture ben più solide rispetto ad altri stati africani e a un livello educativo generalmente abbastanza elevato. La vita riprende, come qui nelle strade del centro della capitale, disertate dai bianchi come in passato, ma con segni tangibili di un commercio e di una vita sociale che stanno rinascendo. Qui e là venditori di bibite, di banane, minibus che percorrono le vie in tutte le direzioni si fermano a ogni angolo per far salire altri passeggeri, una specie di ritorno al futuro, a una certa normalità. È domenica e il coro di Sioux si esibisce al Hartfield Worship Center, una chiesa presbiteriana in un quartiere residenziale di periferia, abitato in buona parte dalla borghesia medio-alta nera. Siamo a una quindicina di chilometri dalla township di Mbare, dove abita Sioux, ma sembra di essere in un altro paese. Niente case popolari o terreni incolti qui, ma proprietà cintate da mura e viali orlati di giacaranda e acacia. Il pastore Clarkson Cidimuro legge dall'Ecclesiaste. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo, per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere, un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere, un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere, un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. I fedeli ascoltano il raccoglimento, le parole, in questo paese dove per molti la vita è così difficile, possono assumere i contorni della fatalità, ma anche della speranza. Dopo il tempo delle parole e della riflessione, di nuovo quello della musica e del ballo, Sioux e gli altri membri del coro si scatenano, promanano energia, gioia. Mi piace molto danzare e cantare, mi alleno molto, sempre il martedì, il giovedì, il sabato. Vengo tre volte la settimana in chiesa, ci racconta Sue, i campi di calcio e la chiesa, passione e sogni di questa ragazza delle township. È importante pregare perché quando soffri e quando sei triste, Dio ti aiuta. Yeah, it is important to pray because when you are in trouble, sorrow, when you think of God, you cancel all your problems. La musica è il linguaggio del cuore, può fare anche quanto non riesco a fare io con i miei sermoni. La musica può trasmettere messaggi molto profondi, per questo nella mia chiesa la promuoviamo. Chiediamo ancora al pastore Clarkson, ma qual è il messaggio che vuole trasmettere per esempio tutti quanti hanno perso amici, parenti, figli, genitori a causa dell'AIDS? Il nostro messaggio è Dio. Quando pensi che ormai tutto è perduto, concentrati su Dio e Dio ti aiuterà, ti accompagnerà a superare le difficoltà. Dio a volte non risolve i tuoi problemi immediati, ma ti aiuta a superare la sofferenza e l'amarezza. Quanti di noi l'hanno detto? Perché proprio io, Signore? Perché? La Bibbia ci insegna a pensare a Dio e a comunicare con Lui attraverso la fede. everyone else has got their loved ones but me. You know, as people go through that, I would want them to just focus on God. The Bible says looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Il paese è impregnato di valori religiosi, cristiani nella misura del 65%, ma vi è un diffuso sincretismo. Ai bordi della strada, Sasha ci indica diversi gruppi di persone, donne per la maggior parte, membri della Chiesa Apostolica. Tutti vestiti di bianco, si riuniscono a pregare nei campi, stanno lì per lunghe ore. In questo viaggio nello Zimbabwe della seppur timida rinascita e della speranza, ci dirigiamo ancora a casa di James Mujuru, musicista di mbira, uno strumento tradizionale composto di lamelle metalliche posizionate su una tavoletta di legno. Ci racconta che cerca di vivere di musica, anche se molto difficile, ma che questa è la sua vita. Un figlio d'arte, suo padre è stato il musicista di questo strumento più conosciuto del paese. James Mujuru ci parla del rapporto tra la musica e il suo paese, della funzione della creazione musicale. Con la moglie ci suona poi qualche brano, storie d'amore, di pace, ma anche di battaglie, di guerra, in un alternarsi di riflessioni e di poesia sulle difficoltà, la forza, le debolezze e i sogni della sua gente. Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.